cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qui, una nuova puntata dei Funamboli. Oggi però vi proponiamo un meglio di, perché vogliamo riepilogare un po' di storie che abbiamo raccontato in questo primo mese e mezzo in questa puntata fino alle 11. E da che cosa vogliamo partire? Vogliamo partire dal racconto di Valeria Collina, che è stata nostra ospite qualche giorno fa. Forse ricorderete lo scorso 3 giugno, quando ci fu un terribile attentato terroristico a Londra con 8 persone uccise sul London Bridge. Ebbene, uno degli attentatori era Youssef Zagba, che poi fu ucciso dalla polizia. Youssef Zagba, padre marocchino e madre italiana, Valeria Collina per l'appunto, che ha scritto un libro su questa vicenda da madre di una persona che poi a un certo punto della sua vita ha colpito l'Occidente trasformandosi in terrorista. Da qui parte il meglio di Funamboli. Allora, la prima storia che vogliamo raccontare, Veronica, è una storia molto molto intensa. Intanto, cari ascoltatori, forse ricordate, era il 3 giugno, quando a Londra un comando di 3 terroristi colpì sul London Bridge. Prima la tecnica è quella abbastanza usuale, un veicolo sulla folla, poi persone accoltellate e ovviamente tutti che ripiombarono nel terrore, no? Tutti gli occidentali, ancora una grande capitale colpita. Nel comando tra i terroristi islamici c'era Youssef Zagba, padre marocchino e madre italiana. Madre italiana che ha scritto oggi un libro e che noi abbiamo occasione di intervistare. Esatto. La storia di Valeria Collina, ridotta insomma all'osso, si tratta di una donna italiana che si è convertita all'Islam, si è trasferita in Marocco assieme al marito e lì ha avuto 2 figli che ha cresciuto. Uno dei 2 figli era Youssef, il ragazzo di cui parlava Alessandro. Dopodiché è tornata in Italia, è tornata da circa nel 2015, è tornata in Italia. Adesso vive nella provincia di Bologna e dopo la morte di Youssef ha fondato questa associazione Rama, che vuol dire misericordia, in cui tenta di promuovere l'integrazione e la lotta contro la radicalizzazione dei giovani musulmani, che è il tema fondante di cui parliamo. Il libro che ha scritto è edito da Rizzoli. Nel nome di chi? Valeria Collina è con noi, la ringraziamo molto perché è la prima intervista radiofonica che fa a una grande radio nazionale. Valeria Collina, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno a voi. Tra l'altro, ho scritto il libro a 4 mani, sì, scritto con Brahim Marad, che è un giornalista che collabora con l'AGE e con l'Espresso e si occupa in particolar modo di mondo arabo e migrazioni. Intanto lei capisce, Valeria Collina, insomma, parlare con la madre di una persona che ha colpito così nel cuore l'Occidente è anche una responsabilità, voglio dire, per noi. Intanto lei perché ha scritto questo libro? Qual è l'intento di avere messo in pagina il suo pensiero? Beh, io non avevo intenzione di scrivere un libro, mi è stato chiesto e io ho consultato me stessa, la mia coscienza e un po' di amici per sapere se era giusto farlo. Ne è uscito di sì e l'ho fatto con fatica, con dolore e spero che possa servire. Ma Valeria, lei nel libro sostiene che suo figlio abbia frainteso tutto quanto. Lei parla di una vittima colpevole, dicendo che in qualche modo suo figlio ha voluto dimostrare la grandezza di Allah con un atto che in realtà era un puro atto di disobbedienza ad Allah. Lei con questo che cosa intende? L'Islam è una cosa, cioè pensate voi come almeno come cultura cattolica di capire cos'è il cristianesimo. Mm-hmm. Il cristianesimo è Sant'Ambrogio, San Tommaso, è Calvino, è Lutero, è San Francesco, tanto per dire i nomi grandi. Lo stesso è l'Islam. L'Islam ha una storia incredibile di 1400 anni e più. quello che ecco, allora immaginate che il cristianesimo sia, mi scuso con loro, i testimoni di Geova, cioè quello che adesso questi ragazzi vivono come Islam è l'equivalente di questa, di questa ossificazione, di questo riassunto mal scritto di una cultura, di una religione invece che è una cosa estremamente ampia e ha mille sfumature. Diciamolo però, Valeria Collina, l'indice, perché sennò magari qualcuno dei testimoni di Geova poi ci scriverà. Non è un paragone, perché non ho mai sentito i testimoni di Geova che colpiscono in nome del Dio. No, assolutamente. Io sto parlando di quello che sta dietro a questo. Io sto cercando di fare capire che quando si parla di Islam adesso si parla di come se fosse una cosa unica, una cosa assolutamente comprensibile, è quella anche, è quella che spinge questi ragazzi a fare queste cose. Non è questo. Quello che loro hanno in testa non è l'Islam come 1.600.000 persone una distorsione dell'Islam. Distorsione dell'Islam. Lei, tra l'altro, Valeria, parla di una grossa differenza che c'è, secondo lei, a suo avviso, tra quella che è la storia dell'Islam, l'Islam millenario, e quello che invece è il brand contemporaneo, se così lo possiamo chiamare, del califfato, che invece ha degli stilemi sanguinari molto diversi e secondo il suo punto di vista, anche perché sappiamo che invece suo figlio è stato educato da suo marito in particolar modo, ma anche da lei, secondo una tradizione, come dire, religiosa ortodossa in Marocco, no? Sì, certo, una religione, diciamo, anche questa, perché sono mille sfumature, cioè quello che mio marito soprattutto ha trasferito su mio figlio è anche quello una particolare forma, come un ordine, no? Pensato un ordine monastico, non è quello, però comunque ci sono particolari interpretazioni, comunque assolutamente pacifiche. Queste sono, lui è un tablighi, cioè sono queste persone che forse voi vedete girare con questi turbanti, con la coda dietro, che vanno soprattutto nei bar a cercare di parlare ai giovani che bevono, che fumano, eccetera. Quindi comunque una religione assolutamente pacifica, loro sono anche apolitici, quindi non si permettono neanche di andare a dire se la democrazia va bene o no rispetto all'Islam. Allora, mi scusi Collina, cosa è andato storto a un certo punto nella vita di suo figlio per cui ha deciso di colpire gridando Allah è grande? Allora, cosa è successo? Io sono, da quando è successo tutta questa cosa orribile, me lo sto chiedendo, e naturalmente non ho gli strumenti, mi sto cercando, sto cercando delle persone che mi aiutino a capire. Io penso che, questa è un'interpretazione così molto banale, io penso che lui si sia dato un modello di musulmano irraggiungibile per lui. E sempre ha combattuto cercando di incarnarlo questo ideale, molto banalmente, insomma, si ha rapporti con una donna solamente quando la si sposa, non si vedono certi film perché ci sono delle scene che non vanno viste, la musica non si sente perché anche questo è qualcosa di vietato. E capisce però che poi c'è un salto, cioè un conto è seguire i dettami più puri dell'Islam, sì, e poi c'è stato il salto, cioè quello di fare un attentato terroristico. Allora, questo suo combattimento con questa parte sua interna era perdente, e lui ha cercato, cos'è questo califfato? È un mondo in cui non c'è bisogno di combattere contro se stessi, perché tutto ti è dato. Non puoi guardare le donne perché sono coperte, non c'è la musica perché non c'è, i film non ci arrivano. E quindi lui prima, perché è un processo, cioè la prima cosa che lui ha fatto è cercare di andare in Siria. Cioè io con lui a questo livello, a questo momento della sua radicalizzazione, io parlavo con lui e il discorso era è giusto o non è giusto andare a vivere là, cioè non abbiamo mai parlato di combattere. Pensava di andare a vivere dove c'era il califfato. Certo, sì, a Raqqa. Lui mi faceva vedere dei video in cui si mostrava, e la politica terribile dell'ISIS era questa, in cui si mostrava che tutto funzionava bene, che era una società in cui non c'era povertà, andavano a distribuire la farina nelle case. Valeria, ma durante questi confronti che lei aveva con suo figlio, perché lei parlava molto con lui si confrontava con lei non ha mai avuto il sospetto o il dubbio che la cosa potesse prendere una deriva così, così violenta? No, no, assolutamente, mai, se no avrei fatto l'impossibile, cioè non so cosa, ma l'avrei fatto, no, assolutamente. Eppure la polizia italiana, e questa è storia, aveva anche gli inquirenti italiani, mi hanno trovato dei video dell'ISIS sul telefonino, c'è anche questo giallo. No, no, per no, cui... non è vero, no, no, no, no? Non li hanno trovati, no, perché se li avessero trovati avrebbero avuto gli estremi per un arresto, per un fermo, e questo invece, no, loro, infatti quando mi sono confrontata e ho continuato a farlo anche recentemente con loro, cioè il problema era proprio questo, cioè noi tutti abbiamo desiderato che lui potesse essere arrestato a un certo punto, ma questo non era possibile. Loro mi hanno detto: non possiamo fare se non quello che dice la legge. Allora cosa facciamo? Chiediamo delle leggi speciali? C'è un problema molto grosso questo. Che è un tema, che, è un tema certo. Che molte persone affrontano. Esatto. Tra l'altro lei questo lo segnala, il fatto che comunque a suo avviso la polizia aveva già tutta una serie di informazioni, comunque lei si chiede come mai sia stato impossibile fermarlo o addirittura utilizzarlo, lei dice, come pedina da seguire per eventualmente scoprire altri incensurati. Sì. Esatto, infatti questo comunque è un problema della polizia inglese, perché io, cioè, in tutto il percorso qui in Italia io non ho nulla da dire nei confronti della polizia, veramente, a parte che sono state veramente come dei padri per lui, cioè tutte le volte che lui è arrivato in Italia. C'è però questo giallo quando lui fu fermato a Bologna in aeroporto, cosa va a fare in Turchia, e secondo alcune notizie, però non eravamo lì, lei lo racconta nel libro, nell'aeroporto avrebbe risposto con un lapsus: vado a fare il terrorista, scusate, il turista. Sì, beh, per quello l'hanno fermato, perché non c'era nessun effetto. E poi cosa hanno fatto? Lei questo solo lo attribuisce, certo, al fatto che lui in qualche modo fosse la volontà di essere fermato che lo spinse a commettere questo lapsus. Sì, io penso questo, cioè che il lapsus non fosse qualcosa che ahimè gli era scappato, gli era sfuggito, e quindi... No, invece proprio secondo me lui voleva essere fermato. Era quasi perché non, in quel momento non aveva chiaro. Io sono convinta che lui non l'avesse, infatti non hanno trovato nulla, dei contatti, qualcosa che qualcuno che lo aspettasse o in Turchia o in Siria, non c'era niente di tutto questo, perché hanno tenuto le sue cose per un mese, non so, e poi siccome non c'era nulla hanno dovuto lasciarlo. Valeria, ma le posso chiedere una cosa col senno di poi? Certo. Secondo lei quanto ha inciso realmente la religione, l'Islam, per come Youssef lo conosceva, per come gli è stato insegnato, o quanto, perché lei nel libro lo racconta molto, che suo figlio aveva dei demoni dentro a prescindere dall'aspetto religioso, e parla anche di un nichilismo, di un malcontento molto profondo che lui nutriva. Allora, secondo lei queste due componenti come stanno insieme? Non lo so, io so che c'è questo libro molto importante di Oliver Roy, e lui fa questa analisi che, cioè, non è tanto l'Islam il problema, il problema è questa incapacità, questa impossibilità di vivere la vita che hanno questi ragazzi, in particolare i ragazzi che vivono nelle banlieue, o i ragazzi che vivono nel cosiddetto terzo mondo, cioè c'è questa mancanza di futuro, c'è questa... credo che sia poi di tutti, cioè che cosa si fa, in che sai cosa che su si questo, crede? Io su questo con profondo rispetto dissento totalmente. In che senso? Nel senso che ci sono molte persone disagiate, non è che le persone, anche tra gli occidentali, in tutte le società, anche in Sud America, in Australia, moltissime persone emarginate nelle periferie eccetera, non per questo arrivano a colpire e a fare un attentato. Ma certo, sì, non è che il ci mancherebbe altro, grazie a Dio, certo. Infatti. Cioè, sì, sì, invece dico, questo, allora, questo è il punto, questo invece base, succede, sì. Cioè questa risposta nel nichilismo e quindi mi trasformo in attentatore succede solo nell'Islam, è un dato di fatto. Non conosco le Brigate Rosse anche, cioè, sì, non... Certo, non è una religione il brigatismo, mi perdoni. Vabbè, certo, sì, però non è, va bene, si parla di religione, allora andiamo, se non troviamo nel presente possiamo andare nel passato, cioè viaggiamo allora attraverso la religione, ma anche attraverso il tempo. Comunque io non sto cercando di giustificare, io non so, assolutamente, questo è evidente. Io sto facendo, infatti il discorso non era finito, dico questa è la base, e poi su questo si innesta qualcos'altro, che è una ricerca di senso, e purtroppo, sì, è chiaro, nell'Islam c'è la possibilità di questa lettura. Certamente, sì, ma non è la lettura maggioritaria, e non era solo lettura. Assolutamente no, sono un miliardo di persone, altrimenti... infatti, capito, voglio dire solamente questo, però dico solamente che non è che chiunque apre il 4N va a coltellare le persone, dico solamente che all'interno di un certo disagio che esiste c'è questa possibilità di trovare questo. Come ma di trovare altre cose. Col senno di poi, quali sono stati i momenti di passaggio, i bivi della vita, della sua vita con suo figlio, in cui lei pensa di aver sbagliato, in cui probabilmente poteva intervenire e fare qualcosa di diverso? Io dico proprio molto molto in profondità, io penso lo spirito critico, cioè io ho pensato che non fosse necessario, cioè che io avevo già fatto una scelta, la mia scelta era quella giusta e quello che dovevo fare era semplicemente trasmettere i risultati di questa mia ricerca senza dare gli strumenti per farlo. Questo poi è anche il problema dei genitori, cioè quando uno pensa che quello è il bene per il figlio, in qualche modo glielo impone. Io ho imposto la mia visione del mondo, la mia religione, probabilmente, e lui si è trovato di fronte a delle persone che gli davano una visione di questa religione e lui non è stato capace di capire quanto fosse sbagliato, di cercare di andarci in fondo, di comprenderla. Lo spirito critico, cioè questo è stato il mio errore. Per concludere, signora, noi ovviamente la ringraziamo perché non è neanche, immagino, facile parlare di una vicenda che ha portato alla cronaca suo figlio per una cosa così terribile. Lei ha detto in apertura di avere due figli, sì. L'altro è maschio? Una femmina. Una femmina. È una femmina, sì. È preoccupata per lei? Sì, in senso parlo. Allora, dunque, lei non ha nessun problema rispetto alla religione perché si dichiara atea. Quindi in questo senso con lei sono tranquilla, poi vabbè ci sono i problemi invece pratici, lei non trova lavoro perché è la sorella di... vive in Italia, non trova lavoro perché è considerata la sorella... Adesso sto anche cercando di cambiare il cognome e quindi dopo speriamo che le cose siano diverse. Insomma, questo a dire anche il peso che uno deve portarsi nella vita. Noi, signora Valeria Collina, la ringraziamo molto. Ricordiamo il libro Nel nome di chi, edito da Rizzoli, per chi poi volesse approfondire, insomma, il senso dell'intervista che ci ha fatto, avete in bocca al lupo e grazie per grazie essere davvero. Grazie, ma cambiamo argomento a questo punto. Allora, uno dei temi che c'è per molte persone sono quelli dei figli contesi, soprattutto quando ci sono figli che nascono da coppie di culture diverse, paesi diversi, anche religioni diverse. Noi salutiamo Sandra Fardella, buongiorno. Buongiorno. Sandra Fardella è la madre di Sara, che è stata al centro di una contesa vera e propria tra madre e padre, perché nel 2010 fu riportata in Italia, fu riportata in Egitto dal padre, e dopo 5 anni di battaglia lei è riuscita a riportare in Italia sua figlia. Tra l'altro salutiamo anche l'avvocato Lorenzo Puglisi, che si occupa anche, ha seguito il caso suo, ma si occupa di casi di sottrazione di minori a livello internazionale. Avvocato Puglisi, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ovviamente abbiamo raccontato prima un'altra storia di madre, cara Fardella, sì, la madre, sì, sì. La madre di Youssef che ha colpito a Londra. Quanto è stata dura questa battaglia portata avanti 5 anni per riportare in Italia sua figlia? Ma molto dura, soprattutto contro i pregiudizi, perché di solito quando ci si trova in una situazione di questo tipo o te lo dicono o te lo fanno capire, te lo dovevi aspettare, ed è la cosa peggiore, perché ti senti veramente sola in una lotta per cui tu hai diritto di avere una risposta da tutti, e tutti ti guardano un po' come per dire sì, sei proprio una sognatrice, non ce la farai mai. Però devo dire che a me questo aspetto ha dato sempre una spinta maggiore per invece dire vi dimostrerò che ce la farò. Infatti così è stato, perché il pregiudizio. Ma qual è stata la storia esattamente? Cioè suo marito, non so, suo ex marito ha deciso di portare via la bambina, sì. Perché? Qual è stata Perché bisognerebbe chiederlo a lui. Io per mia fortuna non ho più né visto né sentito, preferirei non vederlo né sentirlo mai più. Suppongo che sia dovuta al fatto che ci eravamo separati per mia scelta, e che questa cosa dal mio posto è fatta ben male. Quindi l'ha portato in Egitto. È una ritorsione, sì, è stata una ritorsione bella e buona, anche perché vabbè, io né Sara eravamo mai state in Egitto, quindi figuratevi che shock poteva essere stato per la bambina a 4 anni. E la bimba era piccolina, 4 anni aveva, piccolissima. 4 anni, non sapeva neanche la lingua, non conosceva nulla e nessuno di quella cultura. E peraltro lui ha avuto degli atteggiamenti proprio di ritorsione, di violenza psicologica. Diciamo che purtroppo si ritrova in questo uno schema abbastanza precostituito di storie simili. Sì, l'avvocato Lorenzo Puglisi, perché poi ci dobbiamo fermare per un attimo con la pubblicità e poi riprenderemo subito dopo. Però avvocato Puglisi, ci aiuti con qualche numero, con qualche inquadramento del fenomeno della questione dei bimbi contesi? I numeri ahimè non sono particolarmente rincuoranti, nel senso che rispetto al 90 i casi si sono, sono aumentati del 400%, nel 90 si registravano circa una ventina di casi all'anno, ad oggi almeno le ultime rilevazioni risalgono all'anno scorso, si attestano intorno al centinaio ogni anno, con una media in Europa di circa 1100 minori che vengono sottratti su tutto il territorio. Sì, sono aumentate, sono aumentate le relazioni multiculturali. Più aumentano chiaramente le relazioni miste, più c'è la possibilità che questo si verifichi. Assolutamente, se poi considerate che proprio le unioni miste hanno quelle con il tasso maggiore poi di separazioni, perché siamo intorno al 60%, quindi capite come possa effettivamente emergere un problema sociale oltre che giuridico. Sì, e poi leggevo che il 45% addirittura è con uno dei due componenti di religione islamica adesso, quindi... Esattamente, esattamente. È quella la cultura con cui c'è più problematica attrito, oppure no? Perché io leggevo che molto spesso, e la gente forse non lo sa, sono contesi con persone che poi stanno negli Stati Uniti, nel Nord Europa, cioè non dobbiamo subito pensare che la maggior parte delle contese siano con coniugi che sono di cultura islamica. Beh, o invece è così. Sicuramente sarebbe sbagliato generalizzare, un dato però va dato, scusate il gioco di parole, ci sono paesi che hanno firmato la convenzione dell'AIA e che quindi rendono il rimpatrio del minore presso il luogo della residenza abituale più facile, anche se facile è un termine evidentemente non consono, considerata poi la tempistica che i genitori devono affrontare per far rientrare il minore presso il luogo d'origine. Ci sono paesi come ad esempio quelli del Nord Africa, ovviamente di maggioranza islamica, nei quali non essendo stata approvata la convenzione dell'AIA, l'iter diventa molto più lungo perché è esclusivamente su base diplomatica. Quindi... Allora fermatevi qui un attimo, dobbiamo andare a dare le informazioni sulla pubblicità, riprendiamo tra qualche minuto con Sandra Fardella, con l'avvocato Lorenzo Puglisi, anche con le vostre considerazioni. I funamboli. Milan, non si può continuare ad essere così buoni con Islam. L'Islam è il problema, caro Milan. Senta, signora Fardella, vivere in Egitto in una condizione in cui, appunto, ha detto la figlia ha 4 anni, e immagino da sola lei con la famiglia del padre, non credo, dalla sua parte. Sì, non sempre con la famiglia, purtroppo. No, dico, ma non con la famiglia del padre e i parenti non credo proprio dalla sua parte, ecco. Che tipo di battaglia è stata? Assolutamente, no, è stata molto dura, anche perché... Ma lei in quanto madre non aveva diritto a riportarla con tanto di passaporto in Italia? È questo il punto interrogativo. Anche, cioè, con l'inganno, voglio dire, come è stata portata in Egitto giuridico, con l'inganno. Non era possibile fare niente? No, giuridicamente io avevo vinto tutte le sentenze, c'era un documento di richiesta anche da parte del Tribunale dei Minori del Cairo di riconsegnare immediatamente la bambina a me. Il punto era che lui veniva informato ogni volta che io mi muovevo, quindi c'è stata una collusione di tanti aspetti che ancora sinceramente non ho capito neanch'io. per cui ogni volta che si muoveva sia da qua che da là, lui era informato e spostava la bambina. Infatti la bambina non è stata poi con i parenti, perché i parenti erano sotto torchio, cioè la polizia si muoveva molto là, però c'era una parte di polizia, di autorità, sì, con me, una parte non con me, perché purtroppo come... Ma non con lei nel senso che erano con suo marito? Sì. Lo facilitavano sì, in questa... Sì, perché purtroppo c'è un'interpretazione personale nell'Islam su ogni cosa, cioè se l'Islam, perché poi io a livello giuridico ho avuto la sentenza a mio favore, per cui anche tutti quelli che per dire erano sono islamici, hanno, perché tendenzialmente al 90% sono islamici, hanno dato ragione a me, però c'era quella parte che invece dava la ragione a lui come padre islamico, e quindi il punto era la bambina doveva crescere musulmana e se stava con me veniva occidentalizzata. Sì. Avvocato Puglisi, quante storie di questo tipo ha sentito e lei affronta? Ma allora, di storie come queste ne abbiamo sentite molte, anche se mi permetta di sollevare qualche perplessità sulla ricostruzione del vostro ascoltatore, nel senso che in Italia, ma così come in tutti i paesi firmatari della Convenzione dell'AIA, sono due le strade che si possono prendere: quella penalistica. In Italia ricordiamo che la sottrazione internazionale è un reato che prevede una pena della reclusione fino a 3 anni, ex articolo 574 bis. Sì, ma questo significa che la signora non avrebbe più potuto mettere piede in Italia senza essere arrestata. E questo credo è già che un non qualcosa. L'abbia fatto. Credo che non l'abbia fatto. Beh, all'inizio l'ha fatto, però. Esatto, perché l'ascoltatore diceva che poi è rientrata. Secondo, si può attivare un procedimento in Italia per la regolamentazione dell'affido, non semplicemente per chiedere di vedere la bambina. Il papà a cui è stato sottratto un minore può chiedere non solo l'affido esclusivo, ma addirittura la sospensione o la decadenza della potestà genitoriale dell'altro genitore, quindi in questo caso della madre. Da quello che è stato raccontato non mi è parso di capire che sia stato chiesto. Per esempio, quindi questo nel caso della storia che stiamo raccontando di Sara è accaduto, quindi deduco che il padre abbia perso la patria potestà. Assolutamente sì. Fardella, è così? L'ha persa? Sì, no, ma io l'ho fatta subito questa azione, all'inizio proprio l'ho fatta perdere immediatamente, con proprio la sentenza, quella di affidamento esclusivo sia dall'Egitto che dall'Italia, ho chiesto la perdita di revocare. Nonostante ciò ci ha messo 5 anni. No, ma io nonostante ciò ho dovuto fare tutto io, cioè se uno si aspetta che lo Stato si muova per te, ciao, cioè, scusate se lo dico, però... Ma vissuta sulla propria pelle questa. Sì, ma tutto questo sua figlia proprio... adesso, mi scusi Sara, se le nomina il papà? Che cosa pensa? Cioè non è contenta, insomma. Non è contenta. Sicuramente non è contenta. All'inizio no, all'inizio non sapeva, perché avevano raccontato ovviamente un sacco di cose false su di me, e quindi il papà appariva come il santo, cioè che l'aveva salvata dalla mamma pazza. Poi sì, ha visto che non è così. Noi intanto facciamo anche a lei tanti, tanti auguri, Sandra Fardella, grazie per grazie essere stata con la madre di Sara, così come l'avvocato Lorenzo Puglisi. E ora cambiamo argomento. Cari amici funamboli, cara Veronica, caro Leonardo... Ora c'è un ospite che a me incuriosisce moltissimo, perché è un'imprenditrice. Facciamo un po' di chilometri adesso. Sì. È un'imprenditrice, amministratore delegato, amministratrice delegato, non lo so se dobbiamo declinarlo al femminile, della Segesam. Di questi giorni è meglio di no. No, la Segesam, che è una società molto particolare, perché è una, credo, delle pochissime società che esporta, fa export con la Corea del Nord. Da Kim Jong-un, esatto. Laura Galassi, buongiorno, amministratrice della società, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Capisce che è un mondo talmente ermetico per molti che intanto che cosa esportate in Corea del Nord? Missili. Sicuramente no, assolutamente no, è il nostro Leonardo Manera, anche perché non ce ne sarebbe bisogno, no? Quindi fanno da soli. Sì, non siamo noi, assolutamente. No, noi esportiamo allevamenti, attrezzature per allevamenti,

Ma più che altro aggiungere un pochino delle spezie, un po' di curry. Fai la curry bonara. Bellissimo. No, più che non altro peperoncino. No, no, non l'ha detta la pasta, no, la curry bonara. Non l'ho sentita, no, vero? No, è stata un'interferenza. La curry bonara, no, no, cioè, questa no, te la puoi rivendere, grazie, secondo grazie me. Grazie che tu lo prezzi. Mi hai dato un'idea. Ero certa, stasera sul menù c'è la curry bonara. No, comunque... Alessandro, che bello, qual è il tuo legame con l'Italia? Cioè, a parte ascoltare Radio 24, eccetera, che cosa ti manca, se ti manca qualcosa dall'Italia? Oppure dacci uno sguardo lì da Chennai, India. Beh, cosa manca? Chiaramente mancano la famiglia, gli amici e tutti i legami. Insomma, io sono nato e cresciuto in Italia, succede nella vita che il lavoro ti porta lì. Dopo tanti anni in America e in altre parti del mondo sono arrivato qua. Ma quanto si profila lungo il tuo soggiorno in India? Ma senti, fra una decina di giorni, se tutto va bene, dovrei andare a lavorare in un'altra città sempre indiana, a Bangalore. Quindi insomma penso... Se tutto va bene, spero non più di 2-3 anni e poi tornare alla base. Grazie, ma cambiamo argomento a questo punto. Cari miei, allora i fatti dimostrano, nel caso fosse necessario, che le famiglie non sempre sono il luogo della felicità, anzi, dentro le famiglie ci sono litigi, problemi, riti devastanti per qualsiasi esponente del genere umano. Per esempio, il giorno Natale con tutti i parenti, le comunioni, le cresime, gli adolescenti furiosi o meditabondi, le cene domenicali tutte insieme in ristoranti oleosi, si riescono a sopportare solo perché esiste il vino. Il vino è stato inventato dopo l'invenzione della famiglia per sopportare pranzi e cene, ricorrenze col parentado. In quelle cene, in quei pranzi, nessuno sa di cosa parlare. Allora in quelle cene disperate e silenziose è stato inventato il calcio, che serve per trovare almeno tra uomini un argomento di conversazione nelle cene, nei pranzi interfamiliari, per non morire di silenzio. Ma comunque si va via con gli sguardi appesantiti, carichi di alcolici, cavalcando risate rumorose e disperate, sognando di scappare, ma neanche troppo lontano, basta poco. Se abita a Milano ti basterebbe andare a Cernusco sul Naviglio, se abita a Roma ti basterebbe andare a Valmontone, e immaginando che un'altra famiglia con altre persone sarebbe migliore. No, non è vero, sarebbe la stessa cosa, non c'è via di scampo. La nostra Costituzione, articolo 29,1, dice che la famiglia è la società naturale nel senso di spontanea, e che non può essere condizionata dallo Stato, nel senso che due persone che costituiscono una famiglia devono poterla gestire liberamente come preferiscono. E allora, invece che alleggerirsi la vita, se la appesantiscono. Dopo aver acceso un mutuo per la casa principale, ne accendono un altro magari per la casa al mare. Non sono coppie normali, passano il tempo ad accendere mutui, sono piromani edili, e in ogni caso hanno figli, cani, criceti, bestie di ogni tipo che mangiano, piangono, ululano, abbaiono, squittiscono, vanno portati a catechismo, a fare i bisogni, sulla ruota, vanno portati all'allenamento sportivo, a judo, al corso di inglese steineriano. Alla fine vieni travolto da tutti gli impegni e ti confondi, porti tuo figlio a fare i bisogni nel parco e porti il cane a judo. Ai tempi dell'Assemblea Costituente, i cattolici, la Democrazia Cristiana voleva inserire nella Costituzione il principio di indissolubilità del matrimonio, sposati per sempre, senza possibilità di divorziare, il tutto sancito dalla Costituzione, la più importante delle leggi. Perciò la Democrazia Cristiana non era un partito cattolico, era un partito sadico, cattivo coi propri elettori. Invece adesso almeno puoi divorziare, ma subentrano avvocati, alimenti, ripicche, psicologi e masochistici tentativi di imitazione del matrimonio precedente. Spesso anche nel nuovo eventuale matrimonio tornano a galla i problemi del primo matrimonio, l'origine di tutti i mali. In politica è sempre colpa del governo precedente, in amore sempre colpa del matrimonio precedente, non se ne esce più. L'amore tra uomo e donna passa quasi sempre. Se ci sono figli, però, restano loro a farci ricordare il tempo in cui all'amore ci credevamo. A 20 anni, liberi, su una moto, al mare, a fare il bagno al tramonto, prima di fare l'amore sulla spiaggia. Sì, nelle nostre vite appesantite, un tempo c'è stato anche quello. Nelle nostre vite appesantite c'è stato anche quello, voglio dire. Il nostro Leonardo Manera, signori. Ricordiamocelo un po', quel tempo della vita in cui, insomma, ci siamo anche divertiti. Non è tutto brutto, c'è del bello anche nella vita. Urlano al mondo, apri le finestre di Radio 24 e urlano. C'è stato del bello, diciamo. Era un tempo lontano, adesso sembrava Festen, te lo ricordi il film? Ecco. Mannaggia. No, comunque, prima sentiamo

e di snack. Per fortuna noi, vedendo la legge italiana che era ancora difficile, siamo riusciti a importare il a mettere il nostro marchio nella rete svizzera, e quindi siamo entrati anche noi in Svizzera, così gli italiani conosceranno un prodotto in Svizzera, fino a poi quando nascerà in Italia e sarà già conosciuto. È vostro, è vostro. Giuseppe, siamo fatti un po' una... Giuseppe, per un neofita, per qualcuno che volesse iniziare, come, da che insetto mi consiglia di partire? Ecco, io voglio cominciare... I grilli. Il primo step. Giuro che non rifaccio la battuta. No, non la farai. Non faccio la battuta. Non giuri, perché sto per imbavagliarti, quindi non la farai. No, ma noi vogliamo intanto ringraziare tantissimo Giuseppe Bozzotto. No, scusami, un'ultima domanda al volo. Giuseppe, ma si mangiano con la forma dell'insetto? Oppure vengono impastati, li camuffiamo? No. Allora, lo snack da passeggio, che è il sacchettino, no, lo mangi con la forma dell'insetto, magari non troverai le zampette dentro, perché le eliminiamo prima che le togliamo le zampette. Le tagliamo, così non ti si infilano nei denti, che quello è l'unico problema. No, perché anche il filo interdentale per l'insetto poi è problematico. Cos'hai? No, niente, una zampetta di grillo. Uno pensa sia una cosa metaforica, no. No, è il grillo, è la forma meno aggressiva che può dare all'occhio umano, ed è anche buono perché sa di nocciola, quindi sa di nocciola. E si sgranocchia bene. Poi c'è la cavalletta, che è un po' più grande, ma lo lasciamo a quelli che sanno già. Senti, vabbè, noi pensiamo in settimana di venire tutti e tre a cena da te, tutti bene. Solo rigorosamente insetti, che poi essendo proteici per noi signore va bene, no? Per le ragazze aiuta. Sì, allora fate gli scherzi. E riduci un sacco mangiando insetti, acquisisci tante proteine, non grassi. L'avevo capito, è ottimo per la dieta. Due settimane ti prendi una linea favolosa. Signori, se volete, per se la remisa in forma, ragazzi, curiosi, andate lì www.insetticommestibili.it e troverete Giuseppe Bozzaotra e il fratello Antonio. E allora ti ringraziamo, Giuseppe, grazie funambolo. Grazie a voi, grazie Giuseppe. Ciao Giuseppe, hai la vera patente da funambolo da oggi. Sì, una vera patente da funambolo. Vabbè, ragazzi, io non so, ho già un certo languorino perché sono quasi le 10:30. Adesso io ti ci porto a mangiare, io ce lo porto. No, vedrai. Se io entro la fine della settimana lo porto a mangiarsi uno scorpioncino. Io non mangio neanche le lumache. C'è un'ascoltatrice, mi dice: ho visto il salame di lumache. C'è anche il salame di lumache. Io le lumache le mangio. Io invece neanche le rane. No, veramente. Non lo so. Però ci ha dato una prospettiva diversa. Perché adesso, se vedremo degli scarafaggi sul balcone, invece di dire che schifo, diremo: ma è una possibilità. È ora di pranzo. No, uno si batte e dice: ma che c'era stasera per cena? Scarafaggi. Vabbè, signori, dai, cambiamo. Dobbiamo parlare di qualcosa che ci ha colpito, Gas. Sapete, ci sono dei sindaci, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Oristano, che ha vietato alcune zone del centro pedonale dicendo che le biciclette mettono a rischio i pedoni. Esatto. C'è con noi Francesco Baroncini, che è direttore generale FIAB Onlus Italia. FIAB sta per Baroncini, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Federazione Italiana Amici Bicicletta. Bicicletta, perfetto. Io devo dire, per esempio, a me spaventa, cioè io a Milano, perché vedo come la gente guida, e credo anche a Roma, nelle grandi città dove non ci sono grandi piste ciclabili, se non in alcune zone, io non la prenderei, cioè è veramente un rischio, Ma allora, in realtà il rischio è molto più percepito che reale, perché tutti i dati dicono che sì, gli incidenti stanno in netto calo. Questo è uno. Dopodiché si usa la bici semplicemente perché è più veloce. Abbiamo ormai conferme, e anche chi usa la bici normalmente sono persone, professionisti, per i quali il tempo vale oro, che usano la bici perché è più veloce in città, è più comoda. E i servizi di bike sharing che si stanno aumentando, a Milano c'era già, adesso è arrivato questo nuovo afflusso libero, non fanno altro che dirci che sono ben accetti. E dei sindaci che dicono che sono un pericolo per i pedoni, che pensa? Allora, le do prima una risposta cattiva e poi le do la risposta reale, perché quella cattiva è di una macchina, che vogliamo dire. Allora, cioè, se io urto una persona in bicicletta, al massimo si fa qualche graffio. Se la urto con la macchina, L'ospedale è sicuro, se non no, peggio. No, credo che nell'immaginario collettivo biciclette e pedoni vengono messi sullo stesso fronte contro le macchine, per quello che poi è lì l'errore, l'errore, soprattutto delle amministrazioni, perché certo, le amministrazioni tendono a mescolare il flusso dei ciclisti con il flusso dei pedoni, mentre i ciclisti, lo dice anche il codice della strada, la bicicletta è un veicolo e quindi deve stare in strada con i veicoli. Però da ciclista... sono gli altri veicoli che devono adattarsi alle bici e non il contrario. Dunque io utilizzo molto la bicicletta in città, devo dire che a volte, io stesso l'ho fatto, molti ciclisti non seguono proprio al 100% le regole stradali, nel senso vanno controsenso, insomma se ne fregano un po' delle regole sui perché marciapiedi, questo magari incrementa i problemi. Allora, il controsenso in realtà lo so che è molto percepito, ma in realtà è una misura di sicurezza, perché andando controsenso io riesco a vedere l'auto e soprattutto la dove Lo so, però esistono statistiche di incidenti di frontali in questo senso in città. No, frontale no, però se un pedone attraversa e guarda solo il senso da cui dovrebbero venire i veicoli, deve essere intelligente a guardare, perché già il codice della strada prevede che i ciclisti devono fare attenzione ai pedoni, e anche nell'area pedonale, se il traffico di pedoni è eccessivo, devono scendere. È già previsto. Ok. Quindi una questione di fare delle campagne dedicate, casomai, invece di mettere giù divieti. Comunque a Bolzano dicono, a Bolzano ci dicono anche un'altra città dove uno su tre va in bici, e un altro ascoltatore dice a Bolzano ti danno anche facilmente le multe se fai qualcosa di errato dal punto di vista. Precisamente. Ma... questo stavo per dire, le multe in realtà vengono fatte, è che non viene percepito, perché è difficile vedere un ciclista fermo con un vigile a farsi fare una multa. Ma io ho letto che sono aumentate tantissimo le multe, c'è cioè il 62% di multe in più c'è stato nel 2016, cioè sono bersagliate queste biciclette. Vabbè, è giusto. Se lei non l'ho dovuto dire io, in risposta a chi dice per l'appunto che i ciclisti non vengono mai multati. Sì, ci sono, se sbagliano devono essere colpiti. Dobbiamo andare alla borsa, ringraziamo Francesco Baroncini, la borsa e poi tante altre cose. Oggi torna anche il Defurbizzati, tra poco. I funamboli. Sapete, questo è il momento in cui convochiamo o chi ci chiama dall'estero, o chi fa dei lavori strani, oppure i mitici furbettini d'Italia, quelli che hanno fatto una furbata e vogliono essere defurbizzati. Bravo. Ce la fai tu una sigla, Leonardo, così? Sento una voce amica. Ta-ta-ta-ta. No, però devi dire anche... defurbizziamoci. Ta-ta-ta-ta. Giovanni, buongiorno. Giovanni ci ha raccontato una roba straordinaria. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Giovanni. Buongiorno. Che tono. Giovanni, sì, che, sì, tono, sì. Austero. Che tono austero. C'è qualcosa che non va nella tua vita? Ti per cercare di darti un tono prima che sia troppo tardi. Allora, dobbiamo fare una premessa. Se uno è tifoso di calcio, va a vedere la Champions League, una cosa che io non capisco cosa sia, non, neanche Veronica. Neanche io veramente non lo capisco, a differenza tua, però vabbè. Uno può fare la tessera per andare a vedere i gironi preliminari e poi dopo, Giovanni, continua tu. Allora, praticamente io avevo, era il 2010, sì, quando l'Inter ha vinto lo scudetto, ai gironi c'era capitato la prima giornata dei gironi Inter-Barcellona, ok, allora io avevo comprato il biglietto ed ero andato a vedermela, poi casualmente in semifinale è successo che abbiamo ripescato il Barcellona, ancora? Allora ho detto, vabbè, cosa hai fatto? Detto ce l'ho. Come il biglietto cambia la data, proviamo. Ma come cambi il biglietto? Cioè, era un'altra partita. Scusa, o la va o la spa. L'hai cambiata a matita la data? Scusami, come l'hai cambiata? C'era stata questa coincidenza bislacca, tanto valeva cavalcarla. Ho capito, ma il biglietto te l'avrà strappato la prima volta il biglietto. No, è quella la cosa strana. Dato che non mi hanno strappato il biglietto. Ah, perché c'è quello elettronico, quello che passa bip. Bip. C'avevo il biglietto. No, era il biglietto cartaceo che mi dovevano strappare la prima parte, poi. Poi la matrice la dovevo mettere nel tornetto, sì, okay. Solo che non me l'hanno strappato, io avevo il biglietto integro, me l'ero deciso di tenere per ricordo. Sì. E dici, guarda te, reincontriamo il Barcellona, ma perché tenerselo per ricordo? Ma il ricordo fu più propizio proprio. Poi sei arrivato. No, io ho detto, allora, io l'avevo diciamo un attimino studiata, perché avevo fuori chi

per Raffaello Cortina Editore, e il professor Luciano Floridi, che salutiamo. Professore, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. L'infosfera, allora, intanto io non lo so. L'infosfera della sfera dell'informazione, così a orecchio. Infosfera, di che cosa stiamo parlando, professore? Allora, guardi, è una cosa abbastanza semplice, paroloni che però servono ad agganciare idee molto alla portata di tutti. Me la caverò con un'analogia. È un po' lì dove il fiume incontra il mare, cioè l'acqua salata incontra l'acqua dolce, e cioè dove un po' il digitale, l'analogico, cioè i computer e l'automobile si incontrano in quella vita un po' che è tutte e due, cioè siamo un po' online, un po' offline. Guardo il telefonino, ma intanto sto in macchina, seguo il GPS, quindi sono collegata, ho collegato, ma intanto però guido un'automobile ovviamente fisica. Ecco, questo spazio che noi stiamo creando, questa è l'infosfera, e in questa analogia sei un po' dove crescono le mangrovie, insomma, in questa acqua salmastra che è un po' tutte e due. E dove c'è anche il mal di testa. Quindi, una zona non, diciamo, frequentabile in modo felice, invece no, sembra di sì, invece, perché viviamo tutti ormai nell'infosfera, no, in qualche modo. Ci siamo tutti dentro e non ce ne possiamo tirar fuori, quindi ad esempio io lo vivo un po' da lontano, ma discussioni sul telefonino in classe, sì o no, penso che siano superate dai fatti. Ecco. Sì. Ma in realtà si parla molto adesso di un'identità proprio tecnologica, che sembra a tratti essere quasi più importante dell'identità reale, cioè è più importante come tu appari sui social, quello che racconti di te, i particolari che condividi, che non quello che tu fai realmente. Certamente, perché noi ci siamo abituati che abbiamo sostanzialmente due identità, no? Chi pensiamo di essere e chi siamo realmente. Cioè io magari penso di essere uno bello, simpatico, spiritoso, ma in realtà sono uno noioso, brutto, cioè, Allora, chi sono e chi penso di essere. Noi invece abbiamo aggiunto questa terza identità, che è l'identità sociale, che c'è sempre stata. Ci sono pagine di Proust con le quali non vi annoierò, che sono bellissime, no? Sull'identità sociale. Ecco. Però in questo contesto, in passato l'identità sociale, cioè chi pensava il mondo che tu fossi e te lo raccontava, faceva un po' di pressione magari, ecco, questo era una cosa che noi vivevamo in maniera molto più distanziata. Oggi i social hanno messo questa terza identità, l'identità sociale, cioè chi il mondo dice che sono, in una maniera molto molto evidente. Ovviamente, siccome noi possiamo interagire, facciamo anche un sacco di compiti a casa, diciamo così, cioè cerchiamo di dare forma a questo io sociale per far sì che chi sono, chi penso di essere e chi il mondo dice che sono, no, combacino. Però possono essere condizionati da noi stessi, ma sostanzialmente è come se fosse una specie di chirurgia estetica dell'identità, cioè io mi rifaccio quello che voglio, per cui posso nascondere difetti personali, posso occultare parti che non mi piacciono e disegnarmi come avrei voluto essere. Ecco, sarebbe bellissimo se fosse proprio esattamente così. È così, purtroppo, però ogni tanto arriva qualche altro chirurgo che rimette a posto le cose. Qualche altro pezzo che non ci piace, dice, perché è difficilissimo oggi, seriamente, ad esempio, è facilissimo mentire, ma è facilissimo anche essere scoperti. Per esempio io dico, guardate, no, sono nato a Bologna, cioè lo sanno tutti che si sente anche dall'accento che sono nato a Roma, cioè inevitabilmente qualcuno prima o poi mi sbugiarderà. Allora, il fatto che si possa dire di tutto e di più sulla rete è verissimo, ma anche il fatto che sulla rete, poi in questa infosfera, tutti sappiano tutto di tutti è verissimo anche quello. E allora un po' torniamo in questo solito metafora. Però, del villaggetto, professore, cioè, è uscito un articolo che ovviamente ci ha incuriosito sul suo libro, su un aspetto del suo libro, Come noi viviamo i social, e perché lei l'ha messo anche dal punto di vista delle relazioni personali. I titoli che abbiamo letto sono questi, io li sottopongo a lei: ci vogliono in media 224 tweet per avviare una relazione sentimentale. Questo ci interessa, 163 messaggini, 70 messaggi su Facebook, 37 mail, 30 telefonate. Io sono arrivato a 223 tweet, me ne manca uno e poi tu sei nella fase stalker. Che vuol dire questa parte? È uno dei dati che io fornisco nel libro. Purtroppo, ovviamente, per vendere copie i giornali devono metterlo come titolo. Il punto un pochino più serio nel libro è che oggi ovviamente i rapporti sociali si sviluppano in maniera molto molto intensa interamente sui social, e allora uno studio fatto qualche tempo fa mostrava come a volte le persone si incontrino non soltanto per ragioni, diciamo così, amorose, ma anche semplicemente per vedersi, per conoscersi, prima sui social e poi magari nella vita reale. Io ad esempio ho avuto due assistenti con i quali ho collaborato, due PA, con i quali devo dire mi sono incontrato molto tempo dopo, cioè ci siamo incontrati attraverso un'agenzia online che ha detto: guardi, questa è la segretaria, deve fare questo lavoro. E soltanto mesi dopo finalmente ci siamo stretti la mano. Ecco, questo avviene sempre più frequentemente. Però a volte non succede che l'incontro, diciamo, con la vita reale rispetto a quella dei social, quando queste due cose si incontrano, creano frustrazione? Non c'è una... A volte sì, a volte no. In genere noi cerchiamo di presentare la nostra, il nostro aspetto, la nostra identità sui social nel modo migliore. Chiaro. Lei guardi soltanto le fotografie le che foto, condividiamo. Le foto sono ecco, adesso io adesso non voglio essere cattivo, però ogni tanto ci sono dei culturisti che poi vedi che sono dei la palestra non l'hanno neanche conosciuta. Esatto. E poi oppure ci sono foto, diciamo così, che ci siamo dimenticati di aggiornare. Allora il collega, la collega che tu poi incontri dice: oh santo cielo, ma c'hai 50 anni, non ce n'hai più 30. Sì, mi sono dimenticato, sei sui social, poi ho lasciato quella foto. Ma 20 anni passano che è un attimo, uno si distrae un secondo. E non... Ma e rispetto al frequentarsi, all'uscire, escono meno i ragazzi, quelli che frequentano i social? No. Beh, questa è la cosa importante da capire. Cioè, digitale, analogico, infosfera, online, offline, è tutto mescolato, in cui non c'è più la discontinuità. Cioè, a noi, se ancora ragioniamo ancora in termini di sei online o sei offline, vuol dire che sei degli anni 90. Sei analogico o digitale, sei degli anni 90. Oggi è molto più continua la cosa, per questo io insisto un po' seriamente su questa, no, di dove stanno le mangrovie. Chiedersi se l'acqua è salata o dolce vuol dire non aver capito dove si sta lavorando. In questo libro, l'approccio che lei ha nei confronti dei social è un approccio eticamente, visto che insegna filosofia ed etica dell'informazione, da quale punto di vista le approccia? Cioè, ha un approccio scettico, ha un approccio asettico, ha un approccio neutro? Me la caverò con riprendendo parole famose. Allora, io sarei un po' ottimista da un punto di vista di opportunità, però sono un po' pessimista nei tempi, nel senso in cui noi saremo in grado di coglierle. Cioè, le opportunità sono enormi, questi social potrebbero fare veramente un grandissimo lavoro, sì, anche appunto da un punto di vista proprio politico, di miglioramento, cioè di informazione, di discussione. Questo noi, quando eravamo un po' più giovanotti, a fine anni 80, inizi anni 90, quando internet cominciava a essere una cosa abbastanza seria, eravamo un po' illusi su questo. Sulla nostra capacità di cogliere queste opportunità, ecco, su questo io sono al momento un po' scettico. Però vuol dire che l'ottimismo, questa è una citazione da Gramsci, per chi l'ha già accolta, questo ottimismo delle opportunità e la frustrazione, non il pessimismo, sulla nostra capacità di coglierle, secondo me motiva a lavorare di più. Cioè, il risultato è: le opportunità sono molte, la nostra capacità di coglierle c'è, ma potrebbe andare persa. Lavoriamo di più per mandare le cose nella direzione giusta. Allora, il meglio dei funamboli finisce qui, ma domani ovviamente torniamo in diretta 2 novembre alle ore 9 puntuali. State con noi.